su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi. 16:07, è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Non fate rumore quando arriva il dire. 06 49 17 50 è il numero di Radio Onda Rossa per raggiungerci durante questo spazio radiofonico e anche durante tutti gli altri. Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero. Ora di buco chiocciola ondarossa.info, la nostra mail. E onda. Com'è? Il blog? Sì, ora di buco.noblogs.org, il nostro blog. Perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Questa puntata entriamo subito nel vivo della questione, abbiamo subito un collegamento radiofonico con cui andremo ad ascoltare insomma di iniziative di un comitato genitori della scuola primaria. E poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare. Firma il contratto, non farti pregare. Se vuoi far parte delle persone serie, ora che sei padrone delle tue azioni, ora che sai prendere decisioni, ora che sei... E come vi dicevo, entriamo subito nel vivo. Dovremmo avere una persona al telefono. Ci sei? Sì. Ciao. Ciao. Allora, so che tu sei il presidente del comitato dei genitori dell'istituto comprensivo Ferraironi, giusto? Esatto. Sì, esatto. Allora, l'istituto comprensivo ora comprende ben 4 scuole: la Pisacane, l'IC Balmasich, la Baracca e la Balzani, che è il plesso chiuso. Ma se abbiamo un attimo di tempo, poi ne parleremo. Senti, so che avete fatto un'iniziativa questa mattina contro gli invalsi, brevemente ci puoi raccontare? Sì, allora, questa mattina e anche venerdì in realtà ci sono le prove invalsi per la seconda e la quinta elementare, che sono queste prove appunto su cui insomma magari avete già parlato. Comunque noi come genitori abbiamo deciso, oggi c'è lo sciopero dei Gobas, quindi gli insegnanti potevano non entrare, potevano rifiutare di fare queste prove invalsi aderendo allo sciopero. Noi come genitori abbiamo pensato di non portare i nostri bambini a scuola per non sottoporli a queste prove, e quindi questa mattina ci siamo organizzati, abbiamo tenuto i nostri bambini in un casale vicino alla scuola e abbiamo fino alle 12:30, quindi fino alla fine della somministrazione, perché dice che queste prove vengono somministrate, e dopodiché li abbiamo fatti entrare con questa giustificazione dicendo che noi eravamo contrari alle prove invalsi e che quindi ci rifiutavamo di portare i nostri figli a fare questa perdita di tempo. Abbiamo anche attaccato questo striscione che secondo noi era significativo, perché c'era scritto: vogliamo la scuola del tempo pieno, voi invece ci fornite i test del tempo perso, insomma, per dire che queste sono perdite di tempo, mentre noi vogliamo una scuola, la scuola del tempo pieno, dove ci siano tutti gli insegnanti. E questo riguarda anche quest'altra iniziativa, esatto, di cui insomma parlavamo prima, del presidio che ci sarà giovedì, insomma. Giovedì 9 a che ore e dove? Ah, noi giovedì 9 alle 17 abbiamo questo presidio convocato dal coordinamento delle scuole elementari davanti al MIUR, quindi a Viale Trastevere, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, perché anche quest'anno, a fronte delle richieste di tutte le scuole elementari di avere un certo numero di insegnanti, il Ministero ha dato meno insegnanti di quelli che servono, e quindi anche quest'anno ci saranno tagli sugli orari. Ci saranno classi che, al posto di avere il modello didattico scelto dai genitori, cioè quello di avere 2 insegnanti sul tempo pieno, quindi sulle 8 ore dal lunedì al venerdì, e a causa di questi tagli siamo costretti a vedere delle classi in cui si alternano 5, 6, 7 insegnanti recuperando vari spezzoni orari dai rimasugli delle altre classi. Quindi insomma, per risparmiare queste 3-4 ore siamo costretti a vedere intere classi composte con degli spezzatini che non hanno nessuna continuità didattica e che su ragazzini di prima, seconda elementare, insomma, comunque ragazzi piccoli, è un modello didattico completamente diverso da quello che era stato richiesto dai genitori, e quindi per questo motivo sono state chieste due insegnanti su ogni classe, e dai risultati che sono dalla nostra esperienza, perché noi purtroppo quest'anno abbiamo avuto delle classi formate così, sono delle esperienze che sono state molto problematiche rispetto al resto delle classi, al modello, diciamo, richiesto dai genitori di avere queste due insegnanti per classe. Quindi noi chiederemo al Ministero, faremo questa manifestazione coinvolgendo genitori, insegnanti, bambini, noi staremo sotto al Ministero chiedendo di avere gli insegnanti a cui abbiamo diritto, ecco. Perché una delle assurdità di questa cosa è che, nonostante la legge dica che noi abbiamo diritto al modello due insegnanti per classe, questo non ci viene dato. Bene, quindi nel senso l'appello immagino sia per il presidio di giovedì, per tutti e tutte, in particolare insomma per tutti i genitori che hanno bambini e bambine nella scuola primaria. Sì, io credo la questione della scuola è una questione importante su tutti gli ordini, cioè i tagli prima della Gelmini, ma confermati dai governi successivi, hanno messo in difficoltà certamente le scuole elementari, ma tutte le scuole sono vittime di questi tagli, quindi io credo che questa è una cosa che riguarda in prima istanza i genitori e gli insegnanti delle scuole elementari, ma che ricalca il problema della mancanza di investimenti e del continuo taglio che viene fatto su tutte le scuole, credo. Insomma, questo è sia da parte dei genitori, anche da parte degli studenti e da parte degli insegnanti, che molto spesso si trovano a essere le altre vittime di questa situazione, perché a fronte degli insegnanti che mancano ai nostri bambini, sono posti di lavoro che mancano, sono precari che non si vedono riconfermato il posto dall'altra parte, quindi siamo, come posso dire, vittime delle stesse politiche scellerate. Senti, un'ultima cosa, sabato avete fatto anche una catena umana, insomma questo istituto comprensivo mi sembra molto attivo, quindi parteciperete. Paolo, scusami, non ti sento più. Dico, sabato avete fatto nel quartiere Casilino Prenestino una catena umana di genitori, bambini, insegnanti, immigrati, è andata molto bene e c'era molta gente, molte persone, anche molti immigrati che ci saranno anche giovedì, quindi. Sì, noi diciamo l'accorpamento dell'anno scorso dell'istituto comprensivo ha messo insieme delle realtà molto diverse, però per molti versi è stato anche un'occasione di incontro e di confronto, perché appunto la scuola Pisacane è una scuola dove c'è una grande percentuale di studenti, bambini che non sono di origine italiana, quindi sono figli di migranti, magari nati in Italia, magari no, però insomma c'è una grande diversità in questa scuola e siamo riusciti insomma in questo periodo a mobilitarci tutti insieme per le cose di cui dicevamo prima, ma anche perché poi le nostre scuole in particolare hanno anche dei problemi di edilizia, per cui alcuni plessi andrebbero ristrutturati, altri sono, il plesso Balzani è stato chiuso per lavori che ancora non sono iniziati, quindi c'è ulteriormente un problema di invalsi e dettagli, noi ci troviamo anche costretti a richiedere l'agibilità proprio delle nostre scuole, perché a seguito della chiusura dei Balzani i bambini sono stati distribuiti sulle altre scuole, e quindi generando problemi perché le mense devono fare lavoro in più, quindi il tempo che sarà a mensa si riduce, gli spazi si sono compressi, non c'è più la biblioteca, non c'è più il posto dove fare l'attività di disegno, non ci sono posti per i bambini con disabilità, insomma posti nel senso posti fisici, perché chiudendo un plesso e mettendo i bambini negli altri plessi, tutti gli spazi che erano adibiti ad attività che non erano quelli di stare in aula sono stati, diciamo, sequestrati per mettere altri bambini che adesso si trovano in spazi che non sono aule, sono biblioteche, sono insomma, diciamo, appoggiati negli altri plessi, e quindi vediamo questo ulteriore problema in questo periodo che speriamo, insomma, speriamo di risolverlo oggi. So che c'è un incontro. Stiamo chiedendo con forza che ci ridiano le nostre scuole e che le mettano a posto, ecco. Va perché bene. Non si tratta solo di aprirle, ma si tratta anche di aggiustarle, perché cioè, se ci va dentro non ce li vogliamo mettere, bambini, sto vorremmo nel cuore dove è bello stare. Va bene, senti, noi ti ringraziamo e ora mi spiace, dobbiamo chiudere, abbiamo anche altri interventi, comunque grazie e ribadiamo l'appuntamento di giovedì al presidio al MIUR alle 5 a Viale Trastevere, tutte le scuole elementari ma grazie non solo. Grazie a voi e mi raccomando giovedì di venire tutti quanti in quest'altra occasione per la difesa della scuola. Va bene, grazie a tutti. Grazie, ciao. Ciao. Words are flying out like endless rain into a paper cup. Torneremo a parlare di Pisacane anche la prossima settimana per presentare un'iniziativa che si svolgerà il 18 di maggio. Intanto continuiamo però a parlare di test invalsi, perché appunto stamattina si è tenuta la prima tornata alla scuola primaria e quindi il primo degli scioperi indetti dai COBAS e dagli altri sindacati di base. Martedì prossimo si terrà quello alla scuola secondaria inferiore, cioè alle medie. Wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Allora, eccoci qua. Romolo, ci senti? Sì, mi sento. Eccoci. Abbiamo detto che avremmo continuato a parlare di invalsi e diciamo avremmo continuato a parlare di invalsi in particolare alla scuola media, perché la settimana prossima, il 14, ci sono le prove invalsi in prima media e diciamo a noi questo... Mi sento male in questo momento, un attimo solo. Francesca? Ci siamo? Eccomi. Sì. A noi questo discorso interessa molto perché evidentemente, come abbiamo detto più volte, la scuola media rappresenta una specificità dell'invalsi che non è riscontrabile altrove, cioè nella certo. Scuola media si fa la prova della settimana prossima, che è quella di prima per gli alunni in entrata, diciamo che l'hanno già fatta in quinta elementare, la ripetono in prima media, ma poi soprattutto a fine anno scolastico con gli esami di Stato, gli esami di terza media, i ragazzi fanno la prova invalsi inserita all'interno dell'esame di Stato ed è una prova a cui non è possibile sottrarsi, non possono sottrarli i genitori e non potete sottrarvi neanche voi insegnanti. Sì. Prego. E in più si somma alle altre 5 prove che i ragazzi fanno, cioè noi in questo momento proponiamo a dei ragazzi di una fascia d'età che va dai 13 ai 15 anni, insomma, 6 prove per arrivare al voto finale, che come sappiamo dall'introduzione dei voti decimali insomma è determinato anche da alcune medie, quindi un carico di responsabilità nei confronti dell'alunno che è veramente eccessivo, con una prova invalsi che tra l'altro l'altro rischia di rendere vano anche un percorso di lavoro e di didattica perpetrato per almeno per i tre anni, perché l'aleatorietà dei test e il livello anche alle volte sibillino di alcune domande che vengono poste all'interno di questi questionari rischia spesso, insomma è capitato, rischia di mettere veramente a repentaglio il lavoro di competenza e di capacità anche concettuale che il ragazzo ha acquisito nell'arco dei tre anni. Tant'è vero che adesso nessuno lo dirà magari, però moltissimi dei nostri colleghi in questo momento stanno vedendo quali tipo di medie far uscire nelle ammissioni perché poi la prova in Valsi non vada a vanificare tutto. Cioè ormai costringono i docenti a ragionare in anticipo su una serie di variabili che nulla hanno a che fare con la didattica e con la preparazione delle competenze e la competenza vera e propria. Insomma. Sì, infatti questo era uno degli aspetti che ci interessava, forse uno tra quelli che ci interessavano di più, perché è evidente, certo, come è stato detto tante volte, che cambiando la prova, per forza di cose, tu vai a incidere sul lavoro dei tre anni e vai a incidere come anche no? sulla didattica in qualche maniera. Una didattica che tra l'altro già da alcuni mesi è totalmente orientata a questa prova. Cioè noi in questo momento tralasciamo, molti di noi tralasciano il programma tradizionale, insomma, ma soprattutto insomma quello che noi cerchiamo di fare nei ragazzi, che è la ricerca di una criticità, insomma, no? Nel testo di storia, nell'argomento, nelle capacità argomentative del singolo alunno. Tralasciamo tutte queste belle ricerche che nel testo di Cecchi e Vittadini sono forse considerate superflue, come dicono loro forse i livelli di standardizzazione vanno in qualche modo in altre direzioni. Tralasciamo questo tipo di didattica, questo tipo di trasmissione del sapere per abituarli ad una logica quasi pavloviana di test, insomma, cioè io ti do uno stimolo, devi rispondere e devi rispondere in questo modo, perché altrimenti, in questi tempi, altrimenti non ce la fai a raggiungere la media desiderata a fine esame. Ecco, e forse questo che Sistito, che tra l'altro era un dirigente della Banca d'Italia, che è il dirigente nazionale Invalsi, tralascia di dire quando ravvede un'esigenza nelle prove Invalsi per una standardizzazione delle conoscenze. Se questa è standardizzazione delle conoscenze, a nulla hanno a che fare insomma le criticità che ogni singolo alunno dovrebbe cominciare ad acquisire nel percorso delle medie. Ecco, questa è forse la frustrazione maggiore per un docente che in questo momento ha. Sì, senti, una mia curiosità a proposito di criticità. Sì. Io ho insegnato alle medie un po' di tempo fa e ricordo, come sì, tutti quanti sappiamo, che in molte classi delle medie c'è una percentuale elevata, una concentrazione elevata, variabile, ma comunque di ragazzi stranieri, di madrelingua straniera. Pronto, non ho sentito la domanda, chiedo scusa. E dicevo, c'è una concentrazione elevata di ragazzi di madrelingua straniera. Questi ragazzi fanno il test Invalsi allo stesso modo rispetto agli altri, con le stesse domande, negli stessi tempi? Allora, per quanto riguarda quelli di lingua straniera, è una normativa di qualche mese fa che inserisce un ulteriore acronimo in quello che i docenti devono imparare, che si chiama BES, che praticamente loro rientreranno nei bisogni educativi speciali e avranno 15 minuti / 30 minuti in più per fare la prova Invalsi, però per conseguirla, così come i DSA, che sono quelli che hanno disturbi specifici dell'apprendimento, che non sono quelli certificati. Di tutt'altro invece tenore è la faccenda dei diversamente abili, quelli certificati, quelli con la 104, a cui l'Invalsi non ha destinato nessun tipo di attenzione. Loro verranno bollati con una all'interno delle prove e le loro copie insomma verranno bollate con un'H. Spesso sono addirittura totalmente diverse da quelle degli altri ragazzi, perché vengono fatte dai docenti di sostegno che li hanno accompagnati per l'ultimo anno, e non rientrano assolutamente in nessun tipo di, io metto tra virgolette, magari un articolo scritto stamattina parlando proprio di questo, di riflessione, insomma, cioè nel senso questa scuola della standardizzata di Sistito, uomo della Banca d'Italia, è una scuola fatta per i più forti, cioè fatta per coloro i quali riescono nei tempi dovuti ad abituarsi a questa logica e quindi fare i quiz, ma tutt'altro per tutte le persone che, come dicevi tu, insomma, che vanno dalla fascia di stranieri che ci sono all'interno della scuola fino ad arrivare alla paradossale, insomma, situazione dei diversamente abili, perché qui poi c'è la domanda che dovremmo porci un po' tutti, insomma, ma l'Invalsi veramente che senso ha, insomma, cioè quello che vorrei a volte estendere a tutti i miei colleghi che hanno ormai accettato in maniera critica questa faccenda, insomma, perché se l'Invalsi è un sistema valutivo intero della scuola, dovrebbe in qualche modo dare anche delle risposte, insomma, o creare delle opportunità per le fasce più deboli, come per opportunità anche per le fasce, come dire, di eccellenza, ma con la 133.08 della Gelmini, 8 miliardi in meno alla scuola pubblica, con il FIS 2012-2013, il fondo d'istituto che è andato a sopperire gli scatti d'anzianità, un fondo che è stato decurtato non so quanto alle superiori, ma alle medie siamo arrivati quasi al 50% in meno, che tipo di recupero o che tipo di opportunità questa valutazione della scuola dà? Ed è forse su questo che tutti quelli che parlano di Invalsi in questo momento a questa domanda dovrebbero rispondere, insomma, cioè, perché poi alla fine, insomma, i pro Invalsi risultano sempre meno. La cosa che invece mi spaventa è che il livello proprio di risposta, anche di analisi dei dati, ormai sono anni che facciamo l'Invalsi, non hanno avuto nessun tipo di ricaduta all'interno della scuola, insomma, questo, se non per la logica degli accorpamenti, oppure per la logica del rating provinciale delle scuole, che crea realmente scuole di serie A e scuole di serie B, insomma. Senti, ciao, una cosa che volevo chiederti, appunto, alle medie, come dire, chi lavora come te alle medie da più anni è abituato a questa pratica, proprio perché appunto da Fioroni in poi è stato introdotto come prova di terza media. Mi chiedevo se tra appunto gli insegnanti delle scuole medie c'è dibattito sull'Invalsi, se si prevede che ci sia una buona adesione allo sciopero che sarà martedì prossimo durante la prova per la prima media, come lo vedi tu da questo punto di vista? Sì, qui voglio dire, io ti rispondo con stanchezza, fondamentalmente, cioè, nel senso che io aderirò allo sciopero dei Gobas e dell'USB, insomma, come aderito tutti gli anni. Il problema è che se non cominciamo a riflettere dal sindacalismo di base fino ai confederali, in qualche modo, su quanto è stato distrutto la classe dei docenti e il corpo dei docenti, forse non ci rendiamo conto che il dibattito interno non può avvenire in maniera spontanea. Forse c'è bisogno di rivedere proprio anche le pratiche di riflessione sul mondo del lavoro e di categoria in questo caso. Ed è una cosa che né purtroppo i sindacati di base, anche se sono quelli che hanno meglio individuato il problema e meglio interpretato, né gli altri sindacati in qualche modo non si sono mai posti. Cioè, qui è tutto affidato quasi a una logica di avanguardia. Ci sono professori che hanno una coscientizzazione e che quindi trascinano magari la sala professori alle assemblee dei lavoratori, ma professori che non conoscono il proprio contratto, la precarizzazione di questi anni si vede anche in questo, cioè, nel senso, gli stessi precari che dovrebbero in qualche modo, io sono stato precario fino all'anno scorso, quest'anno è il mio anno di prova, insomma, ma gli stessi precari non hanno spazi né categorie proprio interpretative per la difesa dei propri diritti, figuriamoci se possono in questo momento ragionare. Il dibattito sicuramente c'è, ma alla fine viene vanificato da un semplice ordine di servizio dei dirigenti che invece si organizzano, sono più volte incontrati al ministero e sanno come rispondere, cioè, nel senso che sanno come in qualche modo rispondere alla prima insorgenza di coscienza da parte dei docenti. Ma non è un colpa loro fanno i dirigenti, che ormai non sono più, lo sappiamo da anni, che i dirigenti non sono più dei docenti, insomma, ma sono, con la logica dell'autonomia, diventati dei veri e propri insomma nei manager senza azienda, a mio avviso. Brava. Il problema reale è che se non c'è una riflessione collettiva da questo punto di vista, sia dai sindacati di base che da chi dovrebbe in qualche modo difendere il lavoro, ti rispondo come ho iniziato, insomma, con grande stanchezza, cioè nel senso che qui i pochi coscientizzati tentano di portare avanti, alla fine ci saremo, alle volte siamo, eravamo in, all'inizio dell'anno siamo in tanti, insomma, l'invalsa arriva a fine anno, ormai con una serie di procedure che sono entrate in mente, e quindi insomma ci si affida più che altro alla coscienza individuale, non possiamo parlare né di coscienza di gruppo né altro, insomma purtroppo questo è un dramma che qui voglio sottolineare, perché insomma le categorie di una volta non ci sono più, cioè l'idea di una di assemblee partecipate dove discutere e dibattere le hanno scientificamente smembrate, cioè nel senso con la precarizzazione, con una perdita di valore stipendiale, quindi di retribuzione, con tante cose hanno fatto stancare il lavoratore, quindi su questo bisognerebbe inventarsi qualcosa di nuovo. Pronto? Sì, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa su questi appuntamenti che ci sono sull'invalsi di martedì prossimo. Ma assolutamente, insomma, io la questione è un'altra, è che qui lancerei veramente più che altro una riflessione che dovrebbero fare tutti i docenti, a non cedere alla acriticità, cioè nel senso se siamo lavoratori della conoscenza dovremmo andare fino in fondo, insomma non tutti i docenti sanno che il sistema di valutazione nazionale è stato decretato l'8 marzo di quest'anno a camere sciolte da ministro Profumo che non ha ascoltato assolutamente né i sindacati né tutti i movimenti che a Viale Trastevere sono fatti sentire in questi anni, è andato dritto come un treno e ha approvato un sistema di valutazione nazionale che è praticamente il padre degli invalsi che stiamo, io non lo farò insomma, ma che fra pochi giorni sarà sui banchi delle medie, bisogna proprio che i docenti sappiano almeno questo, insomma, che il sistema di educazione nazionale è partito a camere praticamente sciolte da un ministro che non ha ascoltato nessuno, e da parte loro più che aderire allo sciopero, cosa che io mi auguro facciano in tanti e tanti manifestino criticità, c'è bisogno proprio di un'azione quotidiana di recupero della conoscenza, cioè nel senso che va proprio dal contratto alla difesa del contratto, cioè io ricordo a tutti che tutti i docenti dal 2007 che hanno il contratto bloccato e quindi insomma, cioè ritornare a parlare di lavoro con una centralità di categoria e inserire l'invalsi sicuramente in questa logica, sicuramente in questa, e sollecitare i genitori, parlare con loro, cercare in qualche modo di ampliare quanto più possibile ma lo spettro di conoscenza, cioè proprio questo, cioè dire a tutti che noi faremo l'invalsi, che è una prova che costa tot, quando le scuole quest'anno hanno fatto metà dei progetti, anche se sui progetti dovremmo aprire un altro dibattito, però comunque hanno offerto metà delle opportunità perché il fondo d'istituto è stato decurtato in tutte le scuole d'Italia, che abbiamo 8 miliardi in meno alla scuola pubblica, e che senza questo recupero di questi 8 miliardi, ma di quale valutazione vogliamo parlare? Cioè di quale sistema di valutazione vogliamo in qualche modo articolare? Insomma, qui rischiamo che le scuole fra poco facciano un manifesto pubblicitario che dice che ha ottenuto il 90% al rating degli invalsi, iscrivi i tuoi figli qui perché siamo una scuola del genere, quindi questa logica va perorata a partire dai lavoratori, insomma, quindi chiedo a tutti i colleghi di recuperare proprio questo lessico, cioè siamo lavoratori, come tali dovremmo in qualche modo informarci e riprenderci una coscienza, questa credo sia la battaglia contro gli invalsi più forte che potremmo fare. Senti, ciao, sono un'impiegata di segreteria unata in un liceo. Sì. Allora, mi ha colpito molto tutto il discorso che hai fatto, soprattutto sulla situazione dei colleghi e delle colleghe, insomma, no? Io lo vivo tutti i giorni, anche per quanto riguarda i colleghi e le colleghe docenti. Però volevo rilevare una cosa, cioè questo disinteresse anche culturale spesso a che cosa significa l'invalsi, e come l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo insomma da molte settimane, come anche tu ci hai aiutato benissimo a chiarire. E però invece, quindi questa acquiescenza, no? Tutto quello che viene ovviamente non vale per tutti e tutte, ma insomma per molti e molte. Quindi invece rispetto a qualsiasi possibilità di essere valutati i docenti e le docenti, lì scatta, no? Se mi permetti di dirlo, invece una sorta di quadrato che va a analizzare proprio il perché e il per come non si può valutare nel modo in cui si è voluto farlo in questi anni, si è proposto in questi ultimi anni, il lavoro dei docenti. È vero che l'Invalsi è un modo, diciamo, anche indiretto di valutare, però colpisce questa contraddizione. Tu che ne pensi? No, io credo che, vabbè, insomma, a parte una libertà di insegnamento che io difendo a oltranza, insomma, su questo credo che il primo attacco sia stato quello dell'autonomia e poi siamo andati avanti, ma cioè, libertà di insegnamento non significa assolutamente che il docente non vuole essere valutato, ma questo è l'errore che commettiamo in tanti, cioè nel senso è come se a un certo punto i docenti che difendono, che magari sono contro gli Invalsi, difendono la scuola pubblica, è come se in qualche modo difendessero uno status quo. Assolutamente no, nessuno ha paura di essere valutato. Il problema è che riforma c'è alla base, a monte, insomma, perché se è una riforma innanzitutto condivisa, cioè nel senso, io ti ripeto, Paolo Sistito, come prima Rossi o gli altri, Cecchi, Vittadini, Michino, che sono in questo momento i saggi, insomma, che stanno portando avanti la valutazione all'interno delle scuole, non hanno niente a che fare con la scuola. Allora, quando io parlo di condivisione, i primi a dire, cioè, io voglio sapere quanti sanno che i docenti magari erano veramente contrari alla rottura alla contrazione delle ore. Cioè, se io ti dicessi adesso a te, io sono a favore di ampliare le mie ore di insegnamento per diversificare l'offerta didattica, va bene? Ma questo tipo di proposta, voglio dire, innanzitutto a monte di quale retribuzione, perché poi il problema è questo, perché se non rivediamo il contratto, quale retribuzione? Ma poi questo livello di didattica che è in più, cioè voglio dire, io voglio fare ore in più anche all'interno della scuola. È un tipo di riforma, ma con chi ne parlo? In quali sono stati gli ambiti di discussione a livello nazionale su questo? Cioè, si sono riuniti dei saggi che non hanno nulla a che fare, a partire dalla Gelmini, insomma, con la scuola. Beh, definire la Gelmini saggia. Grande, voglio dire, mutazione del sistema didattico in un paese europeo degli ultimi 20 anni. E questa è una cosa gravissima, insomma. Io ripeto, Cecchi, Vittadini è uno di Comunione e Liberazione. Ichino è il fratello del giuslavoista, insomma, sappiamo da che parte sta. Paolo Sistito viene dalla Banca d'Italia, che è il capo degli Invalsi. Cioè, voglio dire, ci rendiamo conto che a parlare di scuola forse dovrebbero essere quelli che della scuola veramente sanno, insomma. E allora io su questo sono pronto ad aprire una riforma, ma domani, insomma, della scuola, ad essere valutato, a ragionare su che tipo di percorso facciamo all'interno dei ragazzi, ma tutto questo non è avvenuto, cioè non ci sono stati i tavoli, questo è il problema. Sì, e comunque, appunto, essere valutati, io credo che il punto centrale sia su quello che si fa, non su quello che non si fa. Come no? Cioè, nel senso che se vogliono venire in classe, secondo me, il modo per valutare un insegnante è andare a vedere come insegna, più che come mettono crocette i suoi studenti. Il dibattito, come insegna a 31 in una classe con due disabili all'interno, cioè che tipo di valutazione c'è con un orario contratto, perché forse molti non lo ricordano, ma la Gelmini ha contratto gli orari di cattedra, quindi ha tolto di mezzo quello che erano un minimo di compresenza, quindi quello che poteva anche differenziare l'offerta didattica all'interno delle classi, tagliando tantissimi posti precari in questo momento, tantissimi con quella decisione. Cioè, il problema reale è questo, insomma. Cioè, come vogliamo, il problema è questo, è che il controllore in questo momento è veramente pessimo, cioè questa è la verità, perché altrimenti, insomma, magari io non ho nessuna paura di essere controllato, insomma, questo è un dato che sanno tutti, insomma, cioè tutti quelli che mi conoscono, dove opero. No, anzi, ogni tanto si vedesse qualcuno entrare nelle nostre aule, ci tireremmo anche un sospiro di sollievo, almeno per quanto vi riguarda. Senti, ti ringraziamo. Ecco, venite nelle scuole, anziché lanciare, che ne so, la scuola digitale senza poi sapere realmente qual è la ricaduta nella realtà, insomma. Ti ringraziamo molto per questo tuo contributo. Spero di essere stato utile. Grazie, ciao. Ciao. E torniamo appunto salutando la persona che ci ha parlato delle invalsi alle medie, a ribadire che martedì prossimo è di nuovo sciopero, questa volta per chi lavora nelle scuole medie. Il nostro invito è ovviamente di partecipare in massa a questo sciopero e poi il giovedì successivo nelle scuole superiori, ma ne riparleremo martedì. Un brano musicale. Chi ha mangiato la torta? Andreotti! Chi ha permesso il calo della borsa? Andreotti! Ma lasciatelo stare, poverino! Questo dargli addosso è assurdo e cretino! Chi ha sbagliato manovra? Andreotti! Chi c'è dietro la piovra? Andreotti! Siamo tutti pieni di pregiudizi, convinti di pulire l'Italia da tutti i vizi. Giulio, ti salverò! C'è Balil che un giorno perse il controllo. Le male lingue io lapiderò e con le mani io ti difenderò. Baciato Cicciolina. Andreotti! Chi non paga mai in tribuna? Andreotti! Ma lasciatelo in pace, poverino! Questo dargli addosso è tipico italiano. Chi incasina il partito? Andreotti! Ma perché non ho marito? Colpa di Andreotti! Siamo tutti pieni di pregiudizi, convinti di pulire l'Italia da tutti i vizi. Giulio, ti salverò! C'è Balil che un giorno perse il controllo. Le male lingue io lapiderò e a mani nude io ti Ed eccoci di nuovo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, come avete sentito fin qui. Abbiamo appunto parlato lungamente di invalsi anche oggi, ma come dire, questa canzoncina che saluta il presidente Giulio Andreotti, mi guardano male, ci introduce, come dire, negli ambienti meschini della politica istituzionale di questo paese, su cui vorremmo oggi spendere due paroline, perché dopo aver nominato la ministra carrozza, mi pare Maria Chiara, nella notte di qualche giorno fa il premier Letta ci ha comunicato anche i sottosegretari, sono tre maschi, perché se c'è una ministra femmina evidentemente per riequilibrare bisogna mettere tre maschi come sottosegretari. Il problema non è neanche tanto questo, ecco, ma come dire, questi tre sottosegretari ci annunciano un poco di nuovo sotto il sole, a parte che Rossi Doria, il ormai famosissimo maestro di strada che era sottosegretario anche nella scorsa legislatura, è stato riconfermato. Tutto il nostro rispetto per il suo lavoro di maestro di strada, come dire, come sottosegretario ci è sembrato almeno un po' sfuggente, ecco, alle richieste della base, e a volte anche un pochino di più. Ricordiamo che lui, fra l'altro, sulla questione delle 24 ore disse che non era chiusa, era rientrata, ma era una cosa su cui si doveva discutere, quindi insomma una presa di posizione significativa pesantuccia, sì. E gli altri due, peggio che andare di notte. Allora, due parole, poi magari ci aggiungiamo altro. Uno è Gabriele Toccafondi, classe 1972, Comunione e Liberazione DOC, ovviamente, perché nella scuola qualcuno di Comunione e Liberazione ci vuole, perché Comunione e Liberazione deve sempre assicurarsi che gli arrivino i soldi, se no poi arriva un preside che distribuisce i preservativi, come è successo a una scuola romana, voi ricordate quel liceo? Sì. E poi insomma, quindi ci vuole uno di sì, CL, anche che... se io temo che a quelli dei CL più che questo, a loro nello specifico, gli interessino i propri soldi. Vabbè, però contemporaneamente annebbiare le menti, certo. E questo Gabriele Toccafondi è stato, vabbè, viene da Firenze, è stato in consiglio comunale a Firenze, è stato prima, come dire, da studente rappresentante degli studenti per CL, ovviamente insomma là nell'Ateneo, e poi è stato appunto consigliere comunale, poi è diventato parlamentare di Forza Italia, poi è diventato PDL eccetera, e adesso ce lo ritroviamo come sottosegretario alla all'istruzione. Qui c'è anche un problema a usare l'aggettivo pubblica, perché questi di CL si sono inventati che la scuola privata è pubblica, quindi dovremmo distinguere secondo loro tra scuola pubblica statale e non statale, che ovviamente secondo loro dovrebbero avere gli stessi diritti. Questo significa che loro vogliono i soldi, pure perché pubblico sta per aperto al pubblico, quindi pure, che ne so, un ristorante a 200 euro a coperto è pubblico. Pubblico, perché certo. Se vuoi ci vai. E questa sì è la loro idea. L'altro si chiama Gianluca Galletti, UDC, l'idea è la stessa, cioè garantire soldi alle scuole della Chiesa Cattolica, anche se questo di scuola pare non se ne sia occupato mai prima di essere stato messo lì come sottosegretario. Invece Toccafondi sì, se ne è occupato. Ma veramente, in realtà un pochino se ne è occupato anche Galletti, perché va a suo onore la presentazione di una proposta di legge in cui compare come cofirmatario, che riguarda in particolare il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, e all'interno di questa tematica, che obiettivamente è una tematica importante, però diciamo in particolare il rafforzamento della disciplina, vado a leggere proprio, della disciplina della tutela risarcitoria in favore dei soggetti coinvolti in incidenti all'interno degli istituti scolastici, e questo è tutto quello che nel suo curriculum si può rintracciare al suo attivo in materia di competenza sulla scuola. E di sì, no, edilizia, ma proprio un aspetto dell'edilizia privatistico, mi sembra, adesso, se proprio vogliamo entrare nel merito, e questo è. Per quanto riguarda invece l'esperienza di Toccafondi, come tu già hai ampiamente anticipato, non potevamo aspettarci niente di diverso se non due proposte di legge presentate da lui, che riguardano evidentemente le scuole paritarie, o come dir si voglia, cioè la concessione di contributi a sostegno delle scuole paritarie in aggiunta ai fondi ordinari del MIUR, e questa è la prima, e dopodiché la seconda proposta invece reca il titolo di modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza alle scuole paritarie, per cui da una parte a caricare di soldi le scuole paritarie e dall'altra parte a sgravare di oneri le famiglie che decidono di iscrivere i figli alle scuole paritarie, tutto in nome evidentemente della libertà di scelta. Sì, perché queste signore si sono inventate appunto una serie di diciture. Fra l'altro l'ideologo di questa lettura truffaldina, perché parlare di libertà di scelta per dare soldi a una scuola privata, insomma, io non riesco a usare un altro aggettivo, è al governo pure lui, anche se si occupa di altro, ed è Mauro, ministro alla difesa, anche lui di provata fede ciellina, di Comunione e Liberazione. Mauro è uno che ha scritto molto su questi argomenti, cioè sul fatto che le scuole private in realtà sono pubbliche, sul fatto che dare soldi alla scuola privata è aiutare la libertà di scelta delle famiglie, eccetera eccetera. Quindi c'è, come dire, una coalizione io non ho capito bene perché Mauro, ripeto, è stato messo alla difesa invece all'istruzione, perché pareva fosse candidatissimo all'istruzione, visto che quello si è sempre occupato di scuola. A mio avviso è stato messo alla difesa perché ormai il ministero dell'istruzione è un ministero senza portafoglio, e quindi chi conta qualcosina non lo vuole, e soprattutto il cielino sta dove sta il soldino, insomma, non in un posto qualunque. E però insomma da queste parti siamo piuttosto preoccupate, perché non che negli scorsi governi, qualunque siano passati, non siamo andati in questa direzione, perché la legge sulla parità scolastica l'ha firmata Berlinguer, quindi centro-sinistra, oggi PD, eccetera eccetera, Moratti, Fioroni, Gelmini, Profumo. Da questo punto di vista nessuno si è discostato dall'altro o dall'altra che l'ha preceduto, però anche questo governo ci preoccupa abbastanza, e per questo torniamo a dire che, come avevamo accennato l'altra volta, che il referendum che si terrà a Bologna il 26 maggio, chi non l'avesse seguito, insomma, poi ne parleremo ampiamente in una delle prossime puntate, si tratta sostanzialmente di un referendum che vuole abrogare una norma che dà 1 milione di euro l'anno alle scuole materne private nel comune di Bologna, 1 milione solo per il comune di Bologna, ed è un referendum, non so, forse magari qui c'è chi sa un pochino più di me, che appunto viene presentato da un comitato cittadino che si chiama articolo 33, che è l'articolo della Costituzione, che dice ovviamente senza oneri per lo Stato, che qui ormai fa brodo a tutte, fa un colabrodo proprio, e il PD ovviamente ci ha schierato contro, perché loro sanno sempre da che parte stare a questo referendum, che viene sostenuto invece, diciamo, dalla base, da vari soggetti. Questo referendum a noi sembra importante non tanto e non solo per il comune di Bologna, perché come dire, vincere questo referendum forse a tutti noi darebbe un po' di respiro nel cercare perlomeno di resistere a quest'ondata clericale che vuole anche i soldi della scuola pubblica per le scuole private, che sono poi in Italia al 90% della Chiesa Cattolica. Sì, a questo proposito, sulla composizione del governo dobbiamo citare, nostro malgrado, una trasmissione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, dove è stato intervistato il Presidente del Consiglio Letta, e o Letta, non so come si dice, il quale su una domanda molto birichina di Fazio, che gli diceva: ma lei si impegna qui a dire che non ci saranno tagli nella scuola eccetera, lui ha detto testualmente: io mi impegno che non ci sono tagli nella cultura, nell'università e nella ricerca, e non ha parlato di scuola. E questo secondo noi non è stato certamente un caso, ma è stata una cosa intenzionale, perché comunque sono previsti ulteriori tagli nella scuola, ulteriori accorpamenti, ulteriori riduzioni di cattedre e di personale, quindi certamente ha detto: se ci saranno tagli io mi dimetto in questi tre settori. Ovviamente la scuola non è contemplata. Nel frattempo c'è un'ascoltatrice che vuole intervenire sull'Invalsi, un attimo solo di musica che così la prendiamo. E você é isso, de ponta a ponta rega o tempo inteiro pra se manter no poder. Sei quem começou o status quo, nova e a velha mania, bem que eu tentei te alertar. Ed ecco, torniamo in diretta. Pronto, ciao, ci senti? Ciao. Ciao. Ciao. E dici? Allora, buongiorno, io sono un'insegnante di scuola media e vabbè, mi colpisce molto la questione, insomma, della presenza all'esame di terza media di questo tipo di prove, e in particolare poi anche il fatto che si prevede di estenderle alle superiori, se ho capito bene, all'esame alla maturità, sì, perché alle superiori ce l'abbiamo già in seconda, ma da nel 2015 esatto, il 2015 anche alla maturità. E leggendo anche i materiali delle associazioni degli studenti, quello che diciamo viene fuori è che la volontà è di schedare in qualche modo diciamo la popolazione studentesca fin dai primi anni di scuola, e con orientamento e selezione anche ai fini dell'ammissione all'università. E quindi questo, rileggendo poi anche altri studi precedenti per l'Invalsi, effettivamente queste erano cose allo studio, quindi che il fatto che stiano venendo fuori in maniera purtroppo concreta mi convince che questa contro le prove Invalsi sia una battaglia di civiltà, rispetto al quale anche gli insegnanti devono reagire alla stanchezza di cui parlava il collega che mi ha preceduto, ecco. Senti, tu insegni in una scuola media a Roma? Sì. E nella tua scuola c'è un po' di cose, parlando con i colleghi nelle riunioni, quello che al di là, insomma, delle differenze, quello che è venuto fuori è proprio questa, diciamo, quello che tutti notano è il fatto che se c'è bisogno di un'indagine statistica, non si capisce perché poi gli alunni debbano avere un codice che in qualche modo li segue, no? Poi sì, poi fosse solo un'indagine statistica, non si capisce neanche perché spendere tutti questi soldi per farlo fare a tutti e non a campione, cioè è evidente che il fine non è statistico. Ma non è quello, e anche rispetto, prima si parlava di valutazione, però bisogna un po' metterci d'accordo su che cos'è valutazione, perché poi leggendo anche i documenti, le direttive all'Invalsi, si parla di meccanismi, cioè di mettere allo studio meccanismi premiali anche, che possono svilupparsi in tanti modi, ma comunque anche le prove Invalsi possono essere una delle modalità, e anche su questo, insomma, ragionerei. Certo. Senti, noi ti ringraziamo molto per questo tuo intervento, ti salutiamo perché, come dire, lo spazio di questa trasmissione va in chiusura, però appunto è importante sapere che c'è un'attenzione, se non da parte di tutti e tutte chi lavora nella scuola, ma almeno da un gruppo l'attenzione c'è. Grazie ancora. Grazie a voi. E con questa trasmissione, come dire, volge al termine anche per questa settimana. Vi ricordiamo che l'Ora di Buco va in onda tutti i martedì sugli 87.9 di Radio Onda Rossa alle ore 16. Lasciamo i microfoni al martedì autogestito da femministe e lesbiche. Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali.